abbassare. Aspetta, io faccio il batter, tanto. Ripeti che ce l'ho quasi a zero. E del microfono? Del microfono è alto, quanto cazzo. Boh, la 7, lo metto a 6. No, a 5, bene, va. No, metti a 4, a 2, prova. Lasciala a 3, alza quello della radio. Lo senti? Alza quello della radio. Ce l'ho alzato. Ora. Più di metà. Qualcosa che non va, cioè, perché non è stabile il coso, lo Smith. In che senso? Allora, sono di 230, vediamo la potenza. Adesso c'ho 5 watt. Ecco qua, 5 watt. Ce lo metto a 10, oscilla. Cerca di andare di più, no, ora. Come gomiti. Invece lo mettiamo a 5 watt, esci. Mettilo a 3 watt invece. Vai a un watt invece, prova uno. Che cazzo, non gli tratta un watt? No, un watt e mezzo, due watt. Va meglio, gli avrai, dove va? E picchi con la fiora quando arriva così. Esca a 20, arriva a 20. Con un watt, fatelo conto. Infatti è meglio che ho pensato, che ho pensato lo possibile, stavo domando che ho fatto il possibile da 26 campi, che l'ho tolto dall'amplificatore, che non ne avevo altri. Ma adesso si è agganciato con quelli di Aretto? No, solo la potenza della radio, ci vuole usare la linea Aretto, un attacco vicino. Devo fare le cose fatte bene, tutto volante, che altro può che attaccare la linea Aretto. Ma ascolta, abbassalo ancora, metti proprio il watt a 0-0, a vedere. Infatti è 0-0. No, lui sono a 0-0 infatti. Proprio a Gemma quando si muove lo strumento. E non sale niente? Sì che sale. 15 modulati. Con 0 watt, così è? Con watt neanche, 0,5. Caparrogero là. Metti che della radio, ma metto dove ce l'hai? No, metti che della radio è a un quarto del massimo. Ascolta, ammassa leggermente ancora quello, lo stesso, il più 5. Sì, quello che ho preso da 10. Massa ancora un po'. No, adesso è a 2. Mettilo a 1,5. 1,5. Adesso metto le cuffie e voglio ascoltare io, vabbè. Metti un po' di... Aspetta, di ripetere. Sono in bassi, aspetta che cambio il microfono. Vediamo se funziona ancora, perché non mi ricordo se funziona bene ancora sta radio. Ciao Valè, aspetta un attimo, non te ne andare. Ciao Valè, non so se mi ascolti, dai, buongiorno, me l'ho ascoltato. Positivo, dai, tutto lo giro. Ehi, stavamo regolando. Hola. Prova. Hola. E falla andare questo ecco, vediamo un po' come gira. Hola. Sono stata qua all'ascolta, però non mi ricordo più come cazzo si fa. Vediamo un po'. Hola. Hola. Lo senti. Non mi ricordo più. Capito? E tu pensavi che non c'era? Già c'è. oppure va bene così? No, no, no, va bene, bella, bella, bella. Ah, ciao, è tuo. Non mi dimenticherò mai come si usano queste radioline, cambio. Ascolta, Vatti come si è messo adesso? Sempre uno? Vatti sono a uno e mezzo. Proviamo a tirarli su appena appena. Ora, 3 watt, quasi 30 modulati, cambio. Addirittura, così tanto ci sale. Sì. Sì, passa la scala dei 20. Aspetta che lo metto in scala 200. Ehi, quasi 40. Aspetta, perché qua fai da 9, quasi a 9, quasi a 9,25. Ah, lo so. Oh, Valeri, da te com'è la situazione invece? Ah, lo so. Per la modulazione non mi sto ascoltando io però, vediamo un po'. Ora, maledetto per l'ascolta, Ora, ehi, già va bene, dai. Ultimo per la truppa. Sì, sì, dai, positivo, va bene, va bene. No, io sono qua vicino, mi sta sfasciando tutto. No, io sono a casa, però siamo vicini, no? Sì, è quello che stavo dicendo, molto prepotente. Non mi sono ancora ascoltato, aspettate, ne metto le cuffie, dai, perché ho per l'ascolta. Non le tolgo piedi, non le tolgo piedi, fischia troppo, sono troppo vicino. Questo microfono è... cosa devo dire? Cioè, tira, ma mi tira tutta la radio, non mi posso allontanare, capito? Positivo, mettiti le cuffie a vedere. Avevo le cuffie dovresti andare meglio, va, ti ascolti meglio. Dimmi, allora c'hai molto QSB, non so se sei fermo o movimento, però vai da 2 a 6. Sì, fai da Santiago 2 a Santiago 6. Madonna, va bene, va bene, e come se va bene, cambio. Sì, adesso vai da 6 a 7, così va meglio anche, eh? Va bene, cosa li fa, va bene lo stesso. È positivo, va bene che va bene, comunque in cuffie favolose. No, non ci stanno problemi, la modulazione è molto forte, capiu. E questo non è un 48, questo è un bel superstar di quelli fatti in amianto, cambio. Non si può abbassare l'elicottero, che mi stanno arrivando le palle addosso. Si può passare lì da dove c'è il Rifigin, dove c'è il Mepigin, è quello piccolino, è quello più grosso, il coso, l'elicottero. Aspetta, per il telefono mi fa un passaggio, ti faccio ascoltare come stai uscendo. Allora aspetta, quello grosso è il coso, capito, questo qua invece. Ora. Eccolo qua. Secondo me è meglio così, Massimiliano. Ma anche un altro pelino in più va bene lo stesso. Hai detto, quello grosso è il lecco, quello piccolino invece è l'effetto elicottero, così è. Non me lo metto più. Quello grosso rallenta, aumenta l'elicottero, basta. Quello piccolino mi chiedi. Ah, è vero. Mettiamo così, Michi. Questo... ecco qua. Già va bene così, dai, lo lasciamo stare così. Allora, Vale, va bene, spinge, cambio. bella. Ai, ma lo sapevi, te l'ho detto che andava alla grande, capito? Andava alla grande, quindi non ci sono problemi, dai. Per fare due chiacchiere sul 45 quando c'è preparazione può anche andare bene, ma non è che te vuoi buonino che fa questo rocca e che si fa scelare a tutti. Scusa, chiudi tutto l'ecco. Allora, chiudiamo tutto l'ecco, eccolo qua. L'ecco tutto chiuso, cambio. Quando sa, Mickey Gain ce l'avevi, alle 3 più o meno? Mickey Gain è a metà, però guarda, io scendo anche col microfono normale, vuoi aumentare tutto il Mickey Gain, guarda, così c'è tutto il Mickey Gain a maestà, guarda che radio che ha. È un gatto a balli. Ma c'era la modulazione di Dio Claudio, però, capito? Qua si sente anche l'aria che sta andando a lavorare, che ha salutato. Ehi, salutala. Che se non mi trovo normale, mi chiede la manetta, mi sto ascoltando in cuffia e mi fende il sotto. Lo so. Ma vabbè, puoi usarlo anche a mezzogiorno, così. A mezzogiorno tu lo tieni, te lo tengo io così a mezzogiorno, guarda. Così a mezzogiorno. Con l'eco tutto chiuso, il microfono normale, cambio. Vale, com'è la modulazione? Microfono normale, Mickey Gain a mezzogiorno. Ah, il microfono normale è originale, mai sostituito, tutto K. Quindi da questo passaggio a quest'altro passaggio non cambia niente. Un pelino la sento di differenza, dai. Adesso attacchiamo il microfono di tavola, dai. Lo mettiamo a mezzogiorno, vediamo un pochino. Attacco il microfono di tavola. Tu non lo senti che sei in lontananza, ma qua vicino si sente la differenza. Lontananza così non lo senti molto, ma qua vicino già si sente a voglia. Allora, vediamo un po'. Che sono arrivato a baciare tutti i roghi. Allora, Mickey Gain lo mettiamo così. Se ci vediamo, è arrivato a baciare tutto. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, prova. Aspetta che lo mettiamo un pochino più alto. Allora, questo è tutta manetta. Questo è tutta manetta. I toni li mettiamo così, guarda, ecco qua. I toni uguali all'altro a 2. Allora, toni a 2. Mickey Gain a manetta, senza l'eco. Adesso leviamo ancora un pelino, guarda. Così ce l'abbiamo a... Aspetta che chiudo qua, però, se no è un casino. Ecco qua, tutto chiuso, che stavo sentendo un rientro. Oh, vale, questo è l'MPP5, come va? Prova a chiuderli tutti i toni, vedete a zero. Allora, così sono tutti a 2 i toni, così sono a 0. Così li mettiamo, ecco qua. Allora, posso regolarli, vale, ecco qua. Così i toni sono a 4. Ma è così, la guppa. Mettili a 5. Allora, così i toni sono a 4 e devo sollevare leggermente, eccolo qua. E il Mickey Gain l'ho messo a 4. Ok, 4 i toni e 4 il Mickey Gain del volume del microfono, vai. È così, è una guppa così. Provali a 5 i toni. Allora, adesso mettiamo a 5 i toni, eccolo qua. Il tono a 5 a metà. E il volume del coso dell'MB+5 è a 4. Facciamo 5-5, così a 4, eccolo qua, e così a 5, eccolo qua. 5 e 5. È buona, la radio già un bel forte. Vale, tu in lontananza cosa mi dici? Siamo qua per regolare. Allora, possiamo mettere, abbiamo detto, il volume dell'MB+5 è a 5. Adesso mettiamo il tono, l'abbiamo messo a 6, quindi 6 di tono e 5 di volume Mickey Gain. Cosa dici, Massimiliano? È buono, buonissimo. Ok, la misura esatta era questa. 5 di tonalità e 5 di volume microfonico, vale. Secondo me va bene così. Certo, radio così non le hai, Ma tu lo sai che, cioè, a prescindere dalle cose naturali che sono la mia voce, se poi si fanno le regolazioni giuste è chiaro che va bene. Allora, qua ci abbiamo 3 watt. stiamo a 5 watt, modulati sono 15, va bene? Va bene, va bene, provo a aumentarli un altro pelino. E i watt posso salire. Allora, 10 watt di portante bianca, 20 modulati, e sono a metà potenza. È buona anche così la radio. Anche da te, vale, va bene anche così. La potenza è a 10 watt. Potenza a 10 watt, modulati 20. Capito? Però tieni conto che c'ho tutto chiuso, ecco, adesso c'è il microfono di tavola e quindi dovrebbe essere tutto a posto. Vedo anche l'analizzatore di spettro perché sto andando col monitor del 756 ed è abbastanza punta dritta, bella ruspante, quindi dovrebbe essere regolata bene, dai. Mettiamo un po' di eco, vediamo. Allora, ecco qua, così c'è proprio un pelino di eco. Allora, eccolo qua, proprio un pelino, dai, va bene. Hai visto, non si vede, tu hai detto che praticamente non fischiava. La cosa è regolata bene. Senti, va, posso aumentare anche un altro pelino, va, che bella. Scappa brioche, la andiamo bene. Dai signori, fatemi delle regolazioni ancora, io sto mandando due video, claro, ascoltateli, che vado a scendermi il fuoco, là, se no si fa tardi per mangiare. Magari stasera rientro un altro po', dai. Ciao Claudio, ciao Valerio, tutti quelli che ci sono in ascolto, là. Sentiamo più tardi, ciao ciao. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano, dai. Ci ascoltiamo stasera, io continuo a fare le prove, però. Allora, vale, così c'è l'eco, però te lo tolgo, dai. Lo metto a zero, ecco qua. Ok, a zero di tutto. Ciao Giulio, buongiorno, ben ascoltato, avanti. Ciao qua, va benissimo così. Ho appena acceso e stavo ascoltando le regolazioni, ultimo. Va benissimo. L'ha raggiunto così, non toccare più niente. Sì, a Massimiliano l'ho salutato, sono arrivato tardi, vabbè, pazienza. Sarà per un altro momento, dai. Ciao Valerio, se mi ascolti, avanti. Vabbè, stiamo facendo delle prove o niente di particolare, io sai, i baracchini già ne abbiamo, questo è quello modificato che però si può usare anche così. Aspetta, posso, ecco qua, sto volando un ritocchino giusto appena di Mickey Gain al coso, come si chiama, all'MB più 5, dai, va bene, quindi è tutto a posto. Giulio, va bene anche per te così, sì? Va benissimo, claro, lascia così che va benissimo. Cos'hai, il 48? No, questo è il Superstar, 3009, mi pare. Modificato, capito? Però basta tenere l'eco chiuso, lasciarlo stare così, già va bene. C'ho il tono dell'MB più 5 a 5 e il volume dell'MB più 5 a 5 e il Mickey Gain è a più di metà, va bene. Va benissimo, non va bene, va benissimo, è così che deve essere regolato. Ottimo, ottimamente bene. Sì, Superstar è un bel macchinetto, Superstar sono di lusso. Vabbè, anch'io sto usando il Superstar in questo momento, però quello vecchio, antichissimo, del 360 FM, per cui diciamo che non si smentiscono mai, i Superstar vanno veramente bene. Tra il Superstar e il Galaxy Saturn Echo, per me sono tra i migliori in assoluto in questa banda qua. Io li sento sento sempre molto bene questo tipo di apparecchi. Avanti, Valerio. Ehi, Valerio, ci sentiamo, stammi bene. Buon pranzo anche a te, buon tutto e ci sentiamo alle prossime. Buona giornata. Avanti, fatti sentire stasera, Valerio. Tanto sono qua a casa io. Non so più cosa fare, quindi mi sto mettendo a tirare fuori i baracchini. Fare prove e provette, ma fortunatamente funzionano tutti e molto molto bene, quindi non c'è problema. Ok, avanti Giulio, riprendi. Ok, ciao Valè, a stasera se coincide, dai, ci sentiamo, buon pranzo. Va bene qua, ogni tanto togliere fuori uno e si prova e va bene. No, ma così è regolato bene, veramente bene, è ottimo. Sì, inizialmente, come stavo dicendo Valerio, non era molto chiara la modulazione, era un pochino, secondo me, gracchiante, eccetera. Ma adesso è regolato alla perfezione, adesso è proprio ottima, veramente chiara, pulita, pulita e soprattutto forte, forte, forte. Ok, io non è che uso un volume troppo alto, però è già forte, molto forte così, molto forte. Se poi aumento è tipo spacca orecchie, capito qua? Per cui va bene, non toccare niente, lasciala così, ottieni la memoria così, quando non lo usi sai come lo devi regolare. Buongiorno, ben ascoltato. Niente, sto provando l'altro baracchino, Superstar, sempre con DMB più 5. Ciao Franco, buongiorno, buona domenica, avanti. Buongiorno anche a te, buona domenica. Ciao Giulio, buongiorno. Aspetta, come è andato invece con la radio Roma? Quando uno si viene, prova ogni tanto. E anch'io bisogna che mi decida a togliere ogni tanto qualcuno a farlo funzionare, così, vabbè, non so se è il caso, comunque quando ne ho voglia, ogni tanto ne tolgo fuori una e la metto in funzione, fra. Salutoni, buongiorno. Avanti, riprendi fra, dai, che non ho un po' di tempo senza sentirti, riprendi tu e fai girare, vai. Vabbè, ho detto. Ogni tanto già entro, non molto, però già entro ogni tanto più. No, è bella la radio, è bella quella radio 28, l'ho detto. Quella dovrebbe essere radio all'insumbra leccia, radio modificata, sicuramente. Avanti Claudio. Sì, fra, è modificata, è corta questa, c'ho tutto chiuso. Posso leggermente aprirlo e farti sentire l'effetto di cotto, ma no. Non fa con l'MV5, devo mettere il microfono normale, capito? Ah, senti, te lo richiudo, dai. Va bene, sì, questo è il Superstar 3009, sì. Questo 3004, cioè, come con che PC, ti roba avanti. Vabbè, comunque, 3004, sì. Oh, fra, allora io di baracchini, baracchini, li chiamo baracchini, lascia stare il gas a tornecco, ok, già quella per me può essere già un apparato, chiamiamolo apparato, ma io baracchini entro la madre, ne ho 10, capito, 10, e tutti perfettamente funzionanti li posso attaccare a uno e fateli sentire. Questo sta dando 10 watt e sono a metà potenza, 10 watt e 20 modulati. Anche questo modificato corto c'ha 35 watt, però le uso a 10 watt. Capito fra? Ma quelli dovrebbero andare solo con le microfoni originali, per tirare bene, dovrebbero andare. Con l'amplificazione penso che. Come senso da chi li usa, là. Poco fa io c'avevo un microfono normale, stavo usando l'eco, facendo le prove di regolazione, però a me non mi piace usare il microfono normale, allora sto usando l'MB più 5 con i toni a 5 e la preamplificazione a 5. Penso che vada più che bene, no? Sì, al 100%, no, come radio niente da dire, anzi è bellissima come radio. Ok, avanti giù. Ok. Vediamo un po', adesso mi sono messo le cuffie per ascoltarmi io, per vedere com'è questa, ecco, volume normale, l'ultima regolazione non l'ho più toccata, sempre alla stessa regolazione, per cui non l'ho, ma adesso mi sto ascoltando con una cuffia anche seria e devo dire che se voi mi sentite come mi sento io qua, devo dire che è molto bella anche questa la radio. Avanti Franco. Ma io ho finito una cosa, non ti conosco in verticale per sapere la tua voce in verticale, però se così la tua voce in verticale, guarda, è bella, chiara, è benissima la tua modulazione lo stesso, perché non c'è nessuna cosa, proprio appresso niente, per me è come uno parlasse in verticale. Beh, ok, diciamo che non ho una voce molto, molto cupa, ho diciamo più toni alti che bassi e che medi anche, per cui no, siccome avevo fatto una regolazione qualche giorno fa con questo apparecchio qua, e io l'ho lasciato sempre alla stessa regolazione, sia il microfono che il baracchino. Sto usando un Superstar 360 FM, vecchissimo, un apparecchio che avrà 30 anni come minimo di vita. E il microfono è l'MB più 4, regolato in maniera, suppongo, perfetta. Va bene. Avanti Claudio. Va bene Giulio, te l'ho detto, la regolazione che avevamo fatto l'altra volta era perfetta, quindi secondo me meglio di così non puoi uscire, perché prima di fare quelle regolazioni di taratura c'era troppa potenza e quindi no, non andava bene. Ogni tanto mi giro, adesso purtroppo i baracchini li sto provando qua all'altra finestra, non li sto mettendo sugli HF e sto guardando lo strumento. Ora si scala a 20, sì, quasi 20 watt modulati. Il segnale com'è lì fra? Va bene anche la radio? Ah, il segnale che 8 e qualcosa modulati 9,92. Va più che bene allora, va più che bene. Ottimo per la truppa, va bene. No, li avevo agganciato, non mi sono ricordato. Perché c'è lo stesso attacco della RAN 48, le avevo agganciato l'attacco della RAN 48, sto usando quelli con lo stesso attacco, però c'era il fusibile da 8 ampere, mi sembra 5 ampere, mi era bruciato subito, allora ho tolto il fusibile perché non ne ho altri, da 15, da un connettore che ho, e gliel'ho messo perché sennò mi avrebbero bruciato il fusibile troppo basso. Adesso domani li compro da 15 e glielo metto. Va bene, l'importante è che tutto funzioni bene, poi per il resto non c'è problema. Sì, va benissimo qua, veramente bene, è bella chiara la modulazione. Va bene, riprendi giù, fatemi vedere se fosse una cosa. Ok, va. Sì, va bene Claudia, va bene così, no. Non c'è bisogno di toccare più niente perché va benissimo, è regolato perfettamente. E vabbè, ogni tanto, però voglio tirare fuori, sai cosa voglio tirare fuori io qua? Solo che adesso mi tocca fare un po' di lavoro per toglierlo fuori, perché dentro uno scatto, quell'HB23 famoso che mi avevi dato tu, lo voglio far sentire di nuovo, ma un altro momento, oggi non è il caso, dai, per oggi non è il caso, quando avrò un pochino più di volontà per poterlo togliere giù, perché devo tirare giù una scatola e vedere dentro se è messo sopra o se è messo sotto a tutte le altre cose. Va bene, riprendi qua. Sì, vabbè, quello lì poi magari organizzati che me lo fai sentire, perché io ti ripeto, con quel microfono là che si è rotto il tasto andava una meraviglia, perlomeno io lo portavo molto molto bene, forse meglio di questi MB più 5, più 4 eccetera, però andava benissimo, alla grande. Va bene, poi con calma me lo fai sentire, dai, non c'è problema. Ok, avanti Franco, ancora 3-10 minuti e poi andiamo a pranzo, che oggi è domenica, si pranza presto, la giornata è ventilata, il tempo sembra che voglia piovere, ma non piove, non si sa nulla. infatti è una giornata un po' così, c'è un po' di vento, io poc'anzi sono uscito per andare al negozio, ma freddo sinceramente non li ho sentito, vabbè che ero col giubbotto, per cui freddo non li ho sentito, ad ogni modo quel venticello che c'è già è abbastanza fresco, per cui già va bene lo stesso. È tempo suo, ormai siamo a metà novembre e il tempo è chiaro che arrivava al freddo. Ma stavo leggendo il giornale stamattina, dice che abbasserebbe anche di 10 gradi, sicché si abbassa di 10 gradi in Sardegna il tempo, allora è imminente il freddo forte, sicuramente è così. Eh sì, allora io mi ho messo gli occhiali, questo è un Superstar 3008. Ah, 3008, ho capito. Ma diciamo che hanno tutti più o meno la stessa caratteristica di trasmissione, queste, perlomeno tutte quelle che ho sentito, io li sento sempre più o meno allo stesso modo, come emissione radio. No, hanno una bella emissione, sono tutti... Del resto, guarda, che il modulo che c'è interno non è che si discosta molto nemmeno dal Galaxy Saturn Ecovi, perché ha gli stessi componenti, più o meno. Per cui la modulazione diciamo che è abbastanza soddisfacente, un po' per tutti penso, perché non mi risulta che qualcuno abbia mai criticato in maniera diciamo eccessiva e tantomeno per niente proprio la modulazione del Superstar. Vanno bene tutti, tutte le versioni che hanno fatto qua. Sì, ma infatti no, non ci sono problemi. È uguale al 3009, il 3008 è il modello prima, questo è nuovo di pacca, è fiammante proprio da dentro una scatola, però purtroppo io non li uso, magari vedi con i microfoni di tavola già va bene. Avanti Fra. Franco non riprende Franco. Oh qua, aspetta che voglio mettere per un attimo il microfono qua, sa delta, aspetta che sto facendo un po' di movimenti, ecco adesso ho bloccato la portante, sto preparando il microfono sa delta, ecco Master Plus, e vediamo, adesso mi sto avvicinando, vabbè forse sentirai anche la saturazione, insomma un po' di tutto, non facci caso perché ci sto lavorando qua, e poi ti faccio sentire questo microfono e mi dici la differenza tra l'MB più 4 che adesso in condizioni normali come in questo momento anche per quanto riguarda la distanza dal microfono e poi il sa delta che ti farò sentire successivamente fra un attimo. Ok qua, cambio il microfono. Bella, va bene, quello che stai usando 300. Ho capito. E questo è un 3008, non è un 3009, questo è un Superstar 3008, capito? Superstar 3008. Va bene. No, ma stai andando benissimo, Fra, va bene, alla grande. E il segnale più o meno quello che dai a me tu con la 48.7, dai. Silvio di Nuovi, già lo che funziona. No, quello lì è piccolino. Io c'ho il 747 che non lo attacco perché questa è radio. Questa poi essendo Colt è modificata, c'è già, te l'ho detto, 10 watt, quasi 20 modulati, quindi sono a metà potenza. No, non c'è bisogno di attaccare niente, dai. Magari stasera mi organizzo e lo provo con la 48 che c'ha pochi watt, hai capito? Sennò è un casino, capito? No, non è arrivato ancora, aspetta. Paloma mi ha mandato il video Massimiliano e lo stavamo provando corte col microfono normale, ma è da paura, non si può usare a fare questo così, dai, è meglio non usarlo. Già va bene. Ecco, allora qua, dimmi la differenza di modulazione qua, questo microfono e quello che stavo usando poc'anzi, questo è il Sadelta, ecco, Master Post. E adesso sto facendo una modulazione normalissima, ammetto un attimino una puntina di eco, guarda, A, 1, 2, 3, A, ecco, adesso c'è l'eco. Siccome mi sto ascoltando anche in cuffia, questo mi sembra che ha più toni alti dell'altro. Dimmi com'è, qua, vai. Sì, ha più toni alti, modulazione molto bella, abbastanza corposa, con i medio bassi abbastanza regolati, però l'altro spinge molto di più, Giulio. Non so se Franco è d'accordo, l'altro spinge molto di più. Vero, Fra? Può darsi che ci sia il volume basso. Io provo anche a aumentare il volume della radio. Ecco, se lo metto così, questo è inascoltabile in cuffia perché è troppo forte. Infatti me l'ho dovuta spostare, se no ti spacca le orecchie. Vai qua. Ecco, così è un po' simile all'altro. Più o meno sei come l'altro giù. Ok, ed è a metà, questo è a metà appena del suo, questo qui è il slider, ha come potenziometro, no? Poi se metto, vabbè, io ho la cuffia e lo sto sentendo leggermente fischiare, anche perché se metto poi l'eco, ecco, 1, 2, 3, prova, l'eco va, poi c'è anche la, questo cos'è, un altro, ecco, così ho fatto un'altra regolazione, così è proprio eccessivo forte. No, così è troppo forte, è meglio come era prima. Perché mi stavo ascoltando e adesso me l'ho tolta la cuffia perché non è possibile trattenerla, perché è troppo forte. Comunque abbasso anche il volume del microfono e abbasso anche tutto l'eco, tutto abbassato l'eco. Comunque così, messo così, a meno della metà come volume, è accettabilissima, no? Voglio dire, non è che devono mettere l'orecchio sulla radio per ascoltarmi, no? Assolutamente no, va benissimo alla grande, ci mancherebbe altro, però ti ripeto, come modulazione e tonalità di voce io preferisco l'altro microfono, capito? Non so se Franco è d'accordo, Fra, ci sei? Sì. No, fischiava perché avevo la cuffia adesso non dovrebbe fischiare più. Avevo la cuffia e poi c'era l'apparecchio, l'altro acceso perché io mi stavo ascoltando, poi ho abbassato tutto per cui il fischio non ci dovrebbe essere più. No, questo ha più toni alti, probabilmente se la allontano, ecco. Adesso tutta la lunghezza del braccio, dalla bocca, il microfono è lontano, tutta la lunghezza del braccio. Questo possiede molti toni alti rispetto all'altro, l'altro del BB più 4 rimane un pochino più con più toni bassi. Ecco qual è la differenza, Franco. Premesso che non so nemmeno quanto si carica la batteria, sia dell'uno che dell'altro microfono, per cui, però, perché questo ormai è nel cassetto da qualche mese, messo da parte e non lo stavo più usando. Cosa volevo dire? Questo qui è uno di quei microfoni che c'ha il gambo che si abbassa completamente, diventa piatto sulla base del microfono, Franco, il Sadelta Master Plus. No, questo qui è, ecco, Master Plus, questo qui è quello grigio, ha una base tutta in bacchelite, questa, ha il gambo ed è grosso, un centimetro e mezzo circa per 5 di larghezza, come sensore, non è quello, quello ce l'ho un altro, quello ho un problema io con l'altro microfono. che c'è il PTT che non funziona bene. Io però quello con le fasce rosse, sì, ho capito quale stai dicendo, tu c'hai quello nero e io quello con le fasce rosse. No, questo qui è un altro, questo qui è tutto grigio, tutto in plastica, c'è il modulometro lo stesso, la spia di modulazione quando premo la portante, due tasti, uno grande, grandissimo rosso, e uno per il bloccaggio della portante. Poi ha tre slider, cioè tre potenziometri, uno è il volume. Uno è l'eco e l'altro è l'equalizzatore dell'eco. Vediamo un po' cosa c'è scritto perché non me lo ricordo nemmeno. Ah, il delay, ecco, l'altro è il delay. Per cui sono tre potenziometri che io ho azzerato tutti e due quelli e ho tenuto solamente a metà quella del volume del microfono. Qua. Ok, sì, ma no, comunque sono tutti nel gruppo. Sì, sinceramente, anche l'altro, quello l'MB4 mi piace di più anche a me, perlomeno ascoltandomi in cuffia, mi dà una modulazione con un po' di toni bassi, medio bassi e in più, visto che io ho una voce un pochino che ha i toni alti, un po' sfigola, diciamo, dai, tutto lì. Avanti qua. Sì, è uguale al mio, fra, è uguale al mio, quello vecchio. Funzionano molto bene perché io ho solo roba un po' adattata, anche questo è un 3008, non è un 3009 Superstar. Pensavo fosse un 3004, invece è un 3008, ma ci vuole solo i PC. Va bene, fra, ciao, buon pranzo, ci aggiorniamo stasera, dai. Ok, anch'io Giulio stacco e è pronto il pranzo, anzi devo dare una mano anche a mia moglie. Che me l'ha chiesta da poco fa, mette roba al forno e ancora c'ho ginocchio. Ci aggiorniamo stasera Giulio, fatti sentire, intanto partite, non ce n'è. E quindi ci sentiamo stasera in radio, dai. Un saluto circolare a tutti quelli che sono in ascolto sul canale 10. Allora Giulio, lascio così, tono a 5 e volume a 5. Lascia così che è perfettamente regolato, questa è una modulazione perfetta, dunque non ci sono problemi. Aspetta, è molto bella col baracchino, figurati se l'ascolto col K, allora è proprio tipo stereo, tipo Radio Monte Carlo. Lascia così qua, a posto, perfetto. Memorizzati le regolazioni, così tutte le volte che lo utilizzi sai già come devo regolare. Ok, ciao, buon pranzo qua, a stasera. Ci sentiamo, ciao. Ciao Giù, dai, ci aggiorniamo stasera. No, non tocco niente, perché intanto ogni radio c'ha il suo microfono, quindi questo è regolato così, lo lascio stare così. Poi il Galaxy c'ha un altro MB5 che c'ha un'altra regolazione, capito? No, non c'è problema. Già lo sai che sono organizzato io. Ok, ci sentiamo stasera, ciao a tutti, buon pranzo e buona domenica a tutti, ciao ciao. Ok, ciao qua. Intanto io ritiro questo microfono e rimetto l'altro pronto per stasera. Ciao, ci sentiamo, buon pranzo. Ehi, organizzati con l'HB23 che così me lo fai sentire stasera. Non lo so se stasera riesco, perché devo salire su in mansarda, devo tirare giù uno scatolone dove ci sono tutte le radio, capito? E dunque non lo so se c'è soprattutto la voglia di fare tutto questo lavoro qua. Allora, comunque già te lo faccio sentire uno di questi giorni sicuramente. Ok, ciao qua, di nuovo buon pranzo, alla prossima. D'accordo, ciao Giulia, stasera, ciao ciao.